io questo rumore lo sento spesso perché ho davanti il rio Cavallo, davanti a casa. Chi? E c'ha la cascata. Il rio Cavallo non è altro che la traduzione dal tedesco Rosbach, perché Ros vuol dire cavallo, puledro, e Bach vuol dire rio, torrente, insomma, no? È un fiume che nasce da Folgaria e dopo un tratto di circa 10 chilometri arriva in quel di Caliano, che si mette nell'Adige. Ho provato una bella sensazione perché ho sentito tutto quello che mi circondava. La prima volta che ho fatto 30 secondi di vacanza in una lezione scolastica. E boh? Non so. Vabbè, sapete. D'acqua. La cosa più banale. È la cosa più preziosa. Beh, sì. Perché? Perché non la beviamo in maniera indispensabile per la nostra vita.